ti nascondi tra le crepe dei palazzi e nelle finestre che sanno ancora aspettare. Sei fatta di attese, di promesse che profumano di basilico e di sirene stanche che sognano ancora. La tua bellezza è un disordine che incanta, non ha carezza che graffia, ti lasci amare solo da chi non ha paura del buio, da chi capisce che anche la luce qui può fare male agli occhi. C'è sta una voce in do viento, canunne più musica, ma memoria. Ogni pietra parla piano, ogni silenzio suona come preghiera. Te capisce, ma te sente. Così, senza...